era un punto dove erano piazzati i cosiddetti fumogeni. Voi non sapete cosa sono i fumogeni. Allora, i bombardamenti, come dicevo prima, erano frequenti, va bene, per salvare, diciamo, le zone popolate, abitate, va bene, e venivano aperti dei grandi recipienti, grandi, erano dei bidoni, ma questi emettevano dei fumi che coprivano praticamente l'abitato. Ecco, allora io dovevo sempre attraversare la zona del fumogeno e per arrivare alla cooperativa. Questo da bambino avevo paura, perché voi capite, no? Cos'era sta roba? Non sapevo se era veleno, eccetera, e venivo via di corsa. Ecco, sono quelle cose che poi ti rimangono impresse per tutta la vita. Io ricordo che c'era un sasso, per esempio, grosso così, 30-40 centimetri, diciamo, di diametro, non ho mai capito perché fosse lì, va bene, e quando io correvo dovevo, cioè sentivo il bisogno come di saltarci sopra, no? Di mettere il piede per attraversarlo.